Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ecco qua, per raccontarsi, per raccontare. Questa è ormai domenica 27 gennaio. Era un sabato 26 gennaio tramontatosi in domenica, perché a quest'ora sono esattamente le 2:28. Siamo in diretta. Però per chi ci starà ascoltando a casa con le registrazioni durante la settimana, non so che ore saranno, non sappiamo come andrà il palinsesto. E dopo delle bellissime ragazze che venivano da Cattolica, che dice mare, purtroppo sono venuto a trovarmi il trio Medusa da Lampedusa. Il trio, il trio Merdusa da Merdusa da Lampedusa. Bellissimo. Nonché no, di Pozzolengo. Di Pozzolengo. Sono questi ragazzi simpaticissimi di sul Pozzolengo. Lago di Garda. Lago di Garda, quindi siete bresciani o mantovani? Bresciani. No, Pozzolengo, Pozzolengo bresciani da che parte è? È sotto siamo Brescia, in centro sotto tra province, non lo sappiamo. Brescia, Mantova e Verona, però siamo sotto perché Brescia. Sentivo l'accento così, capito? Siamo un po' strani. Sono personaggi veramente strani che sono capitati qua con una giraffa che non ho capito. La nostra mascotte del martedì sera. È in giro da martedì quella giraffa. Sì. Dio sa cosa ne ha viste. Di cotte di crude. Allora, innanzitutto cominciamo, introduciamo. Allora, abbiamo il biondino Nazareno Salandini, parrucchiere di Pozzolengo. Per gli amici? Neno. Ah, Neno, Neno. Semplicemente Neno. Neno, Neno, ecco. Poi abbiamo il cappellone. Mauro. Che non è un tuo cliente lui. No, ma, sì, no, è il tuo cliente. Ne ho pochi, ma Mauro. Andavo Mauro. Prima. Gregorio. Poi Gregorio. Lattoniere di Pozzolengo. Gregorio secondo o terzo? Quarto. Ah, quarto, ok. Poi abbiamo l'innominato, che è meglio che non... È meglio che non parli. Io mi chiamo Mano e faccio il frer. Fai il frer? Il frer. Non okay. Che Fabbro, attenzione. Non che Fabbro. Sempre di Pozzolengo. Ma anche Maniscalco? Fabbro e ginecologo. Così. Quindi mi vuoi rubare la professione. Va benissimo. Bene, mentre gli amici si stanno scompisciando dalle risate, perché poi c'è la signorina. La signorina. Ah, c'è anche la signorina, non me ne ero accorta perché qua. Fa la timida. La timidona. Ciao, io sono Elisa, e faccio la tassista. La tassista? Elisa. Il cognome, esatto. Qual è Elisa? Elisa Crosato. Ah, no, ecco, Elisa la tassista. E è fidanzata con l'Oliboni. Ho capito. Salutiamo l'Oliboni. E ci portiamo l'Oliboni in macellaio di Pozzolengo. Ecco. Detto il monteur. Ma allora, i nostri amici a casa ci vorrebbero chiedere che cosa ci fate voi qua questa sera. Che cosa avete festeggiato al ristorante Convento? Abbiamo festeggiato il compleanno di questa bellissima ragazza di nome della tassista, Elisa. Taxista che non beve. Non beve. Guida. Non si direbbe da come è allegra, è felice. E fa 25 anni se non sbaglio. Però ne dimostra di più. Però dicono dalla regia che ne dimostra di più. Però è il Ferrer, per cui il Ferrer va duro. È va. Un po' bip, è un po' bip. È un po' bip, bene. Vedo. Non si può dire il resto. Quindi i 25 anni di Elisa abbiamo festeggiato al convento. E il Ferrer invece quanti anni ha? Il Ferrer vado per i 18. Sì, ma 18 anni da scontare no, ancora. No, per gamba. Per gamba, per gamba. Quindi no, 36, ci siamo. Sì, siamo. Sì, sì. 35. E il Gregorio invece quanti anni ha? Io 25. 25. Come la cosa? Nella testa sì, però in realtà ne ho 30. Portati male, no, portati no, male. No. Poi abbiamo Mauro ne avrà figlio dei fiori. 26. E belli capelli proprio. È la cura del Nazareno, sto bordello. Nazareno. E io ne ho 19. Allora, dai, Nazareno. Allora, dici dove veniamo a farci tagliare i capelli. Allora, a Pozzolengo, che tutti lo conoscono. Certo. È impossibile che nessuno lo possa conoscere. Codice in via Gramsci, 56. Ecco, c'è il Neno. C'è il Neno che taglia i capelli. A me che taglio mi faresti? A te. Allora. Ti taglierei la barba innanzitutto. Sì. Di l'aiuto. Sì. Così rigiovanisco. Così rigiovanisco. Benissimo. Poi è una bella scuola. Ma un pizzetto no. Proprio no. Pulito. Pulito. Face. Clean face. Face. E poi una bella sfumatura, un ciuffo laterale. Da pazzo. Alla schiaffo? Alla schiaffo. Bene. Bene. Oh, com'è, attenzione com'è? Che c'è la piera. Abbiamo una fan. C'è la piera. Abbiamo i fans. Abbiamo. Qui non è parrucchiere, ma è un hair stylist. C'è l'Elisa che mi sta suggerendo che è un hair stylist. Perché devo fargli la tinta e la vuole gratis. È contagiosa questa cosa, hair stylist? No, cioè, perché qua l'ambiente è piccolo, non vorrei. No, a questo punto vi dobbiamo salutare, salutiamo gli amici a casa. Ci vediamo alla prossima, ci vediamo. Gli amici di Pozzolengo. Allora, salutiamo il nostro caro amico Vitante. Mano, salutalo tu. Ecco, volete salutare? Ciao abitante TVB. Benissimo. E ci vediamo in via Gramsci dal Neno. Ciao. Hairstylist. Hairstylist Pozzolengo. Ma come si chiama il negozio? Come vorrei. Come vorrei. Come vorrei non avervi mai conosciuto. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti.